nel tempo, nelle mani, negli occhi. Nella strada deserta impalpabile della notte, nelle lucciole che volano una sera d'estate. Sincere e sguaiate, nello sguardo intrigante, davanti a un caffè. Ho voglia di te, nelle sere di giugno, sulla strada sterrata, della malinconia e dei dolci pensieri, delle storie di ieri. Delle ciliegie sugli alberi, del tuo sorriso, della notte bugiarda, dei capelli arruffati, dei tuoi piedi bagnati dopo una corsa fra il mare e la spiaggia. Ho voglia di amare qualcosa, qualcuno, un progetto lontano che non deve finire. Ho voglia di perdermi nell'avvenire. In tutti i baci che ho dato e che ho ricevuto, in quel minuto che non scorderò mai, quando di colpo esci dai guai. Con la musica nel cuore e le parole nella testa, voglia di perdermi nel tempo, nelle mani, negli occhi, in tutti quei prati ricolmi di gocce di rugiada. E poi sulla strada deserta impalpabile, e nelle lucciole che brillano una sera d'estate, e poi nelle tue risate sincere e sguaiate, nello sguardo intrigante davanti a un caffè, voglia di te. Nelle sere di giugno, sulla strada sterrata, della malinconia e dei dolci pensieri, delle storie di ieri, delle ciliegie sopra gli alberi che ti illuminano il viso, e poi del tuo sorriso e della notte bugiarda, dei capelli arruffati, dei tuoi piedi bagnati dopo una corsa fra il mare e la spiaggia. E sì, ho voglia di amare qualcosa, qualcuno, un progetto lontano che non deve finire, poi ho voglia di perdermi nell'avvenire. Ma senza rimpianti verso il mio passato. Baci che ho dato e che ho ricevuto e quel...